CB Balacchino Radio Amico. E niente, e beh, Giovanni Stanco ha scritto se qualcuno lo poteva aiutare a sbloccare il suo CTRSS, non so cosa, e uno l'ha scritto che vuol dire che un microfono abbiamo due che fa il suo contatto, o se no di chiedere a Google GPT diario di Zia cosa va via. Tutti pure di Gabuso. Al suo GPR GPT cosa è? Non ci ho compreso, no? Cosa si è bloccata la radio? Ha detto che riuscivano due scritte e sicuramente si è bloccata, buh. E cosa vuoi ti dica? Non lo so. Ma che casini, come hai detto tu, Gavi, i cacciavitelli, i francimirendi, se non sai come si fa, lasciala come te, magari è entrato nel menu, chissà cosa ha schiacciato, funziona, va sì. I cacciavitelli vengono impigliati e trattati, baffonieri, vidi, i rumuri, se non si sa ne tratta. Per fatto ci vogliono cacciavitti anticonduttivi, e cioè sono cacciavitti che non conducono. Io me li ho presi, ho già pagato 35 euro, sono 5 cacciavitti già. Sono cacciavitti particolari, con la punta, hanno la punta in teflon. A chi viso pure da 5 euro, però se ti si infascia e rimani la plastica a 30 o Dreamer, sono guai. E la gente si mette a toccare medie frequenze, si mette a toccare cose, bobine variabili, che boh, io non lo so, vabbè, saranno affari reti. Intanto tecnici in zona viene a sai che possono arrivare a radio. Infatti, no, ma a me mi è uscito perché sono nel gruppo, no, di su CB Baracchino, e mi è uscito un nome, Giovanni Stanco. Perché uno ha scritto se c'era qualcuno di Sassari, lui gli ha scritto che era del Golfo della Senara. Ha detto per un mese che dopo vorrei Gabbo per un gambio bianco disegnato, beh. E niente, non lo so, e stavo leggendo un po', qui stavo guardando un po' il meteo, e sono, non lo so, oggi un bel strano era con questo clima, e non lo so, ero un po' a riposo, diciamo così, però non lo so, ho sempre le gambe contratte, i muscoli dei polpacci sempre contratti, ragazzi, non comprendo, mi fanno uscire di testa. Io sono entrato da lavoro poco fa, mi sono sdraiato perché stavo scaricando roba e mi è venuto di nuovo il mare alla sciatica, quindi mi sono messo un po' nel letto me l'ha attenuato il dolore, mi sono riposato anche un pochino quando sono rientrato. Poi ho acceso però poi stavo cenando e stavo facendo roba qua e quindi niente, oggi ha fatto caldo, c'era caldo oggi, si stava bene, allora fuori avevo un freddo da bisciarsi. Eia. E Gavi, lì il trucco è che praticamente non devi fare cariche, perché la storia della sciatica sono i carichi alla colonna vertebrale. Se l'organismo dirigi non ve la vai, lascia Luciani, non sforzarti, perché poi guarda è un casino, è peggio. Quindi cerca magari di evitare carichi e di sottosforzo, di prendere qualcosa e magari in qualche posizione che non va bene, perché se no sei sempre con la sciatica, perché la sciatica avviene quando viene compresso i nervi lombari, diciamo, da tutti i via il discorso. E a me stesso era praticamente così. Invece poi mi guascio, ho una vicinia ma ne guascio. E cosa ha fatto già? Un travaglio? Sì, no, lavori sì, però se devi prendere qualcosa di pesante magari lo prendi con un altro collega in due, però caricarti tutta la forza tu per fare il lavoro a fare tipo come Tellanio, cioè ci vuole un'altra persona secondo che tipo di lavoro stai facendo, perché da solo non lo puoi fare se hai quel tipo di problema, perché magari hai una corporatura esile come la mia, cioè non sei uno di massicci come ti va di Poissettino, può essere un'altra persona, capito? E ci porta a avere questi acciacchi così che noi magari piano piano non ce ne accorgiamo, ma fra un po' di anni cazzo è un casino a chi va e si sente un pochino più dolorante, e gli figosi ti portano poi a essere con il malumore, a star nervoso, capito? E non lo so, Gabri, io non è che sto così dicendo che non devi lavorare, però secondo che tipo di cosa stai facendo, di farlo insieme a farti aiutare con un collega, si è pesante la cosa. Già lo facciamo in due, però è sempre, ma da voi è sempre un disastro, a chi la roba quando è pesante, pure a pigliarla in due, noi quando la roba è pesante vivo ogni bassone a pigliarla, vivo ogni, ci vogliono i mezzi, però quando deve pigliare deve pigliare, non ci posso fare niente, io lo so. Vabbè, io già sono uno che non sono, cioè non ho la corporatura poverettino, però diciamo la mia corporatura, io peso 76 kg e sono tutto quanto nevi, cioè non ho un filo, non ho un filo, grazie a Dio non ho un filo di grasso, no? Io faccio anche molto, beh, faccio anche qua in campagna, mi muovo tanto, quindi non mi metto, però quando sto facendo non mi fa niente, e quando biglio rimango quando fino alla buia di un quarto d'ora, 20 minuti, e cominciano i dolori e cominciano gli assieme. Già ti capisco, perché alla fine quando stai lavorando il sistema del corpo umano è caldo, e poi come ti fermi che si raffredda si contrae, capito? Si contrae, magari da bui passa un filo d'aria appena appena umida di freddo, e come hai detto tu saltano, volano tutti i madoni, i doppi, buru, ed è un casino. Io stesso sto cercando di tenermi un po' impegnato, un po' in svagardo, però come dici tu, Marasucci, quando ti viene chissà punturina che pare a me che mi sento nei gustiti, nei bianchi, guarda, mi fanno girare la testa, come sta già rimasto, se si è andato una sua mamma, ho misurito, guarda c'è, e dico niente, nulla, la ragazza di produttori, passaggio, eccetera, eccetera. E allora, niente, provo magari a fare un caffè, a cercare di rilassarmi. Stamana già sti sulla PlayStation, ho fatto l'aggiornamento, ed ero in terra da praticamente da risinca. Guarda, ho provato a sdraiarmi, non ci riuscivo, cioè mi sono sdraiato ma ne buttavo in terra, perché l'organismo mi diceva basta, varadini, bosa di muovi, di vaga che cosa, però ho sdraiato, perché molte volte ti stai sdraiato e peggio è. Sì, anche io mi alzo preso per quello, anche quando mi necedo me ne devo bisacchi, se no mi va di nuovo. E niente. Che storia la bella, chissà che non so con la ricco, chissà che non so con la ricco. Va bene, e Tino, hai sentito, non c'è entrato. Allora, a dirti la verità, oggi c'avevo la radio che più o meno era sempre accesa, l'ho spento alle 4 e oggi non c'era nessuno, tranne poco fa. Sul 10 perché il figlio di Antonio Gabrielino deve essere sepolto, deve essere un terrorista rido minore, deve essere, e deve essere gli acceso la radio, magari gli ha cliccato il microfono e c'era la portante inserita, e mi ha detto cazzo, tutta la lì la portante, ha detto che io avevo la radio accesa e ogni tanto ha detto quasi già meno di ganari, ma no, non c'era niente di anomalo, ha detto magari l'ha accesa Anzura e magari due ribisendi che era accesa chissà da quando. E niente, poi mi è arrivata una chiamata da una persona a vedere se mi vendeva la radio, e gli ho detto che non ne vendevo perché l'avevo pagata dei soldi e soldi in giro non ce n'erano, e a regalarla non ne regalavo nessuno. Ha detto per quello me la tengo, c'è due nipoti, e ha detto ne do una a uno e una all'altro quando saranno grandi, e c'era anche un ricordo quando sarà. E nulla, ha detto non ne vendo, ha detto ce l'ho, sono nuove nuove e me le tengo, perché già li avete visti, la giudizio i prezzi in internet quanto ne vogliono, la giudizio non è che sono un ingenuo o uno stupido, no? E quindi la giudizio di la ficcarsi in un altro lucro, la giudizio non ne do a nessuno. Queste, quelle lì sono ricercate, ma infatti te l'ho detto, adesso che hai preso i potenziometri, lasciatele stare con le radio, te ne tieni una in sala, te ne metti una in camera, così anche ti compri un commutatore di antenna, e quando la vuoi trattare in sala te la tratti in sala, e quando te la vuoi trattare in cameretta te la tratti in cameretta. Tutto questo che ti fai te da metà di gira, ti fai, ti prendi un commutatore d'antenna, ti prendi quelli d'AIFA e ti scrivi dove c'hai i capi dei PL, camera, sala, e quando è pigli e giri, compreso, fai due radio e un'antenna, non ne vendite, la gito dall'altra buccia, non è vendere, che quella lì la sistemiamo, adesso che c'è potenziometri, poi con i potenziometri nuovi vorrà appena ritaratta, ma lascia fare, la sarella, non è che la paghi in virai, te la devi vendere, putti dinni, lasciala dov'è. E infatti, c'è già la Jaudi, si può dire così, in quel sito là, perché nei siti italiani non si può comparare, esatto. Quindi io li ho trovati e speso praticamente 200-210 euro l'una, e cosa vostra, me avendo più ribetti che ha giù comparato, che non ne vale la candela dei soldi, a chi denaro non ha nessuno in giro. Poi già lo sappiamo, la gente vuole sempre la cosa in bada, e quindi ho detto no, non è vero. Quindi l'altro giorno gli ho detto a Davide, fammi la rotellina come quella là uguale. E invece poi l'ho guardata bene l'altra rotellina, e praticamente sono in alluminio, avevo un pezzetto di carta abrasiva, quella che usano i carrozzieri in asciutto, una 3,20 mi pare. Oh, bravi, l'ho fregata piano piano nei bordi e ho fatto la rotellina uguale a quella là, e ci da tutta cromata, ci da con il cerchietto nero in mezzo e tutte le righine cromate e così concavi dove metti le dita per girarlo, sono rimasti nei curiosi. E allora ho fatto anche l'altra rotellina del fine corso uguale a quella del 6 band ed è micidiale, ed è bello perché l'aspetto è nuovo e c'ha le rotelline, quelle due appena particolari, ed è bello, come hai detto tu, è bello vederlo ed è togo. E quindi come magari lo sistemiamo quando hai un po' di tempo, adesso aspetto che arrivino tutti i pezzi e poi gli diamo una sabotata a vedere se funziona, e se no buoniamo la mabbassi come te, capito? E niente, va bene così. E comunque nel franco non è tratto nessuno oggi. E vabbè, già magari ne venne cosa, magari stavano facendo cosa. No, ma ti sto vedendo che funziona, non devi avere fretta, intanto la radio ce l'hai, non devi avere fretta già. Che te la prendo come la notte, così mi parlando in radio, un pezzo oggi, un pezzo domani, te la rimetto a posto. Poi tu hai quelle lì, sono belle perché puoi fare, cioè tu hai tutte e due le serie, hai la serie, hai il le, diciamo, le 6 bande e le 5 bande, e quindi ce li ha tutti e due i modelli, quindi lasciali stare che quelli lì col tempo già prendono valore, e poi rimessi a posto, prima uno e poi l'altro appena aggiustato, dai, messo un po' in isonda, un po' dai, sistemato dentro, magari fatto, e te lo usi. Magari quello lì, quello che stai usando adesso, gli facciamo la potenza minima e la potenza massima, perché adesso lui è stato portato solo a 5 watt, non è regolabile, quindi c'ha il trimmer della potenza minima che è nella scheda a fianco a, diciamo, dove c'è tutti i selettori del beep, dell'eco, di lì c'è un potenziometro che devi portare, devi regolare la potenza minima che vuoi dall'RF power, e poi col VR, col trimmer che c'è nella scheda madre, di lì ti porti la potenza massima senza trapassarla, perché io poi con gli altri bobine variabili, ma non la giovati a cacciavite così tanto per girarli, la giovati a chi l'ha già attaccato, lo oscilloscopio, gli ha attaccato l'analizzatore di frequenze. Quindi la mia in FM con un watt, con questa qua con un watt, in AM da 10 watt di 10 watt modulati, picchi di 10 watt, 10-12 watt. Se la porta a 5 watt di portate bianche, da 5 watt di portate bianca me ne dà 18 effettivi, 18 modulati, in PEP sale anche a 20 watt. E ne dà 40 in banda laterale, ma se voglio la tiravo anche di più, però dà 38 watt in banda laterale, capito? In USB la mia dà 38 watt, 38 40 watt, in PEP fischiando da 40 watt e modulati ne dà 30 fissi modulando. Quindi è così. Lasciatele stare quelle radio, lasciala stare, non le vendere, te l'ho detto al primo momento, non la vendere, mica intanto la busi, la vendi, dopo se la vendi te ne pinti. E via, ma infatti è così, preferisco vendermi le radioline che ho e tenermene un paio, tanto c'è anche quella là nuova nella scatola, come mi ha detto Luigi, per fare la modifica a 18 watt, com'è? Che poi volendo posso mettere anche un tastino totalmente chiuso, totalmente aperto, e quando per esempio la bui va a modulare in 5 watt oppure con il campo aperto a 18 watt, quindi chissà, gli metto le radiografie di una di quelle radio che ho già fatte ed è a posto, ed è già pronta per avere tipo un'altra radiolina tipo a fianco così, e niente. E poi mi tipo magari quel microfono CTR che ho, che è tipo l'originale, se magari glielo intestiamo a quell'altra radio là, tanto così ne ho uno di quello che mi hai fatto per questa, più il tanner, e quella là mi rimane tipo l'originale più l'MB più 4 che è tipo come quello del President, e è a pulso. Ma adesso sto usando sempre il tanner tu qua? Sì, Gav, c'ho sempre il tanner qua e l'ho messo come mi hai detto tu, tipo a metà appena di più, ma leggermente mi. E Michigan ce lo hanno. E già va bene, lascialo stare che va bene la radio. Io qua sto usando il microfono originale, quello che mi è venuto tu, io sempre col microfono originale palmare, gli ho fatto qualche lavoro io questo microfono, il microfono già è tutto tanto sabotato, visto, beh, ci usi, però la radio è originale, e tu pensa che adesso io sto andando in aria con 2 watt, qua la sto utilizzando con 2 watt e basta così. Guarda la radio che ha, 2 watt. È buona perché è piena e niente, e va bene. Non c'è un casino, soffrendo si visionisti. Si sente poco con il tunnel. Non li date nel fastidio, lascia lì sta. Lascia lì sta che non li date nel fastidio. A me, almeno a me non me ne danno fastidio. E poi va bene così, purtroppo. Già, il bidone viso e bisogna tenersi. Il tunnel fa parte del, a volte il QRA familiare fa parte del gioco. E va bene, Tino, ma pugna in disassista sì. Chi se la russa in disassista la ciuffa, non vi credi tu, magari ogni andato un cicchetto, mezzo buccione di birra. Di la faura. Comunque stanno cinguettando perché deve essere che stanno entrando in esso, a chi si stavano mangiando, cioè stavano tirando la carta dal fondo della gabbia grande e gli ho messo il nido con della jutta come di solito, tra avanti ieri e ieri. Beh, stamattina ho guardato ci piedi che ci sono due uova. Chissà che le portiano a buon fine a te. Quando si sente cuglie già ne da buoni e cudini tutti in terra e i gatti che già nei bulcini. Sono mancanti che li doneggi. Ma vai, andare a fascia a lui. No, praticamente fanno nascere il pulcino, gli danno da mangiare i primi 4-5 giorni, poi magari cosa ne so, lui entra di nuovo in calore o lui, s'affarrani e ne cudini tutto pure da unito e rugattigheggiano perché loro si devono di nuovo accoppiare, capito? Adesso se mi fanno una cosa del genere, come li vedo che si stanno di nuovo, li prendo e li metto in separì. E così non c'è pericolo che i pulcini riescono a finire il ciclo dei 30 giorni. Perché l'anno scorso, 2 anni fa, mi sono nati 4 pulcini, 2 da una coppia e 2 da un'altra. E ce li ho, ce li sono giù in cucina, ce li ha mamma una coppietta e un'altra coppietta gli avevo dati a mia zia di Senoli, era un bel contenta io. A chi va in gabbia no, che giù sono, minimo sono 6. E si affarrano tutti quanti bari. E tu metti lì si pare, come hai detto, così li fai. Così non ammazzani. Ascolta, già ti volevo chiedere una cosa. L'altro giorno tu mi hai detto che hai messo la ventola al 131, l'amplificatore, giusto? Sì, gli ho messo un pezzettino, gli ho aggiunto un pezzo di filo perché era corto il suo originale. E ogni tanto la aggancio all'alimentatore. Ecco, quella lì, no, la devi, quando tu agganci l'amplificatore, tienila sempre agganciata. E deve tirare l'aria da dentro a fuori, capito? Non da fuori a dentro, deve tirare l'aria da dentro a fuori. Non deve andare l'aria verso la valvola, capito? Deve portarla in fuori l'aria calda. L'ho montata così, Gavi, l'ho montata di così perché sennò se poi tipo raffredda la valvola di colpo dici, cioè diciamo che si può impaccare, perché lo sguardo termico è differente. No, l'ho messa come hai detto tu, è proprio come hai detto tu, tira l'aria calda a fuori e in su la tira. Perfetto, è quello che ti volevo dire, l'altro giorno mi sono indicato. A chi, perché poi la valvola fa tipo shock termico, capito? E vai a romperla. Ehi, ma infatti ci ho pensato e quindi l'ho messa a tirare l'aria a fuori, non a tirare l'aria da fuori a dentro, capito? Perché tanto se poi lo stai usando e lo raffredda, non sviluppa come deve sviluppare. Sì, deve tenere sempre la temperatura costante, sempre con la temperatura. E quando quando tu lo accendi, no, che lo tieni in stand-by, che dici tra un po' parlo, di lì la tieni spenta. Quando inizi a utilizzarlo, prendi e accendi la ventola e poi quando lo rimetti in stand-by gliela spegni, capito già? perché lui in standby ha sempre quella temperatura, è scalda quando la valvola lavora, quando lavora la nudica, quindi la ventola gliela accendi solo quando sai che per esempio vai in trasmissione parlando, no? E lo stai utilizzando, accendi la ventola e poi gliela lasci accesa, però quando in standby gliela spegni. Infatti faccio sempre così, va bene, già non lo sto usando, ma adesso per esempio è spento, perché tanto quando siamo qua in zona già noi già ci sentiamo, ma anche a Sassari, al Monte, a Lipunti, a Viale Italia dice che già arrivo bene, anche senza amplificatore, se accendo l'amplificatore dice che arrivo a bomba. E quindi un po' di voci neanche ne accendo, tanto già si sentono bene uguali. L'unico problema è che magari c'è qualcuno che lo sento basso perché magari è più lontano oppure è in qualche angolo d'ombra e quindi magari non riesco io ad arrivare, perché rispetto a Franco io sono leggermente più basso, quindi a livello di d'aria Franco è proprio a campo libero e prende tutti i 360 gradi. Sì. E vabbè, Franco a campo libero, però Millo a baita. Vedete che mi è successo un disastro, no? Ha già mai combinato un disastro. Vabbè, da che uno vega che figlio lui, vega che uno che mi ha già chiamato, maledetti. Comunque, sì, tienilo Franco in zona buona, ma non ventra, boh, non ho già compreso questo ragazzo come è messo. Posso mai quanto te sotto? Allora vedi che lei è bruciante la reccia e te ci accendo la radio. No, sono cazzato da sopra, a te ci accendo. Quasi 5 minuti mi sono accendo. Hai visto ti fa vedere animali la gente quando vai alla radio sudata? No, le fa vedere di mare, è un gioco. Gianni, hai visto che è bruciante la reccia? Se lui è sempre in agguato, deve seguire a vedere di qualche film, qualche cosa, perché tanto l'ora riesce a vedere, non è tardi, ma insomma i riservinti insomma stessi. Ciao Franco, com'è? A domani anni piuvi, cosa avremo domani a Rosso? Mi pare che venerdì domani per Piazza Toa, Buru. Ma forse è un po' arretrato, sì, però a me mi pare, anzi avanzene di sì, a me mi pare sia io che domani, non venerdì, Piazza Toa fra due dì. È vero, domani è giovedì, oggi è mercoledì, infatti stamani ho fatto un video, era ancora tutto canto, mezzo rumido, ho attentuato e ho detto sto perdendo la connessione del tempo, che ho detto io gira giù, il bagista ha detto domani è la venne, invece no, oggi è mercoledì e domani è giovedì. Poi so che vedo come si dice in Sennai. Vabbè. E poi cos'è che non entro. Io sono tutta la sera in radio. Ha già fatto pure chiamata a te, ha già chiamata a Gianni, ma manco baricattoli. Tutti l'hanno attesa, ma dicono le cose. No, io lo travagliendo, fra. Io stavo lavorando, fra. Infatti l'ho detto a Gianni, come sono rientrato, ho preso e mi sono, cioè, mal di schiena e mi sono cubuccio, mi avevo fatto la doccia, mi sono cubuccio l'uritto. E niente, mi sono alzato, ma senza dormire, giusto a rilassarmi la schiena. E a magna, mi sono alzato per mangiare, poi ho acceso un po' la radio. E niente, ed eccoci qua. E non ventri mai, sei sempre impegnato, sei sempre vende cosa. Boh, non ha giù compreso, Lugiammani ti inizia dalle 4 di manzano e non risponde, ti inizia da entra a mezzanotte e non ve. Già, così è. No, io ho chiuso la trasmissione delle radio alle 3:30. Ero un po' in oghi, con Rivisone, un ghide, un lasso, poi che avevo le gambe stanche e mi sono sdraiato. Poi mi sono svegliato alle 5:30 di pomeriggio e niente, ed ero un po' con la televisione, un po' con il telefonino, e c'era un po' di freddo nel salone perché stavano facendo le faccende domestiche e quindi me ne sono stato in cameretta. Se no le radio le avrei avute accese tutte quante, anche la radiolina. Infatti la radiolina l'ho accesa poco fa, praticamente hai acceso tutta l'ultimo mese. Quando mi ho fatto la spianatina mi ho acceso tutto e ho detto esci a vedere chi c'era. E niente, tutto qua. Quindi, vivo e fra. Sì. No, io sono sceso, erano le 3:30, 4:20 sono passato in tutto. Stavo guardando la televisione, perché sono sceso da Sassari che era quell'ora, 3:30, 4:20. E nulla, ero tutta la sera in notte. Poi mi sono ritaccato, verso le 7:30 mi sono andato. C'è la lavagna trubanino da McDonald's, no? No, mi sa proprio, fa schifo quella roba lì. Panino già me lo faccio io, me lo dico io. Con la mortadella suprema e la gorgonzola, mortadella suprema, con la mortadella 60. Oh, Iuia, perché se Donald, ehi. Va bene, va bene. Carissimo Franco, carino ti devi essere andato. Carino ti hai sarrato, Pomponio. È un facci doccio, si sa cosciente se è un facci doccio, Pompo. Sei un vecchio vigliacco. Vai, Ivra. No, non l'ho chiuso per quello, te l'ho detto per il motivo. Che ho chiuso. Poi, anche se è rimasto una mezz'oretta, poi non ci sono più salito e mi sono rimasto giù. È un vecchio vigliacco, già chiuso. Non preso. L'agito, vendimi l'amplificatore, va l'amplificatore, non me ne vuoi vendire, l'agito, te lo pago, ti do i soldi più... perché da riparare, no? Vedi, è un amplificatore da riparare, no? Va tutto quanto incassurato da Edu, tutti i sigacciavitti, che tratta, motopicchi e cose, i dreamer. L'agito, ti do 50 euro più... io ho un MVP4 prima serie che non uso, solo per controllare. Era giù di tutte le... No, hai visto per dove gli acco? A chi lo trattava molto piccolo? No, non lo trattavano, ma se te hai capito, può guadagnare le viti. No, l'ha pigliato, va, da quando è diventato ricco si è comprato lo molto piccolo, con stai errati. Ah, ecco. Tanto non vuoi entrare. No, che una vagogna di chi se l'ha fatto. O embriaco una vagogna, vai già. non lo so, forse l'avrò sentito qualche volta, ma è grande di età questo signore, è nel senso che è un buffone o non è un buffone, oppure uno di Bermalosi, se uno ti dica che cosa, passi subito in quinta. No, già è tocco Antonello, io buffoneggio a chi va giù confidenza e... è scherzo, però Antonello già è tocco, dai, non è così. Molto da minori puria, però già è tocco, dai, vai fra. Sì, che in gamba, a parte gli scherzi, non è così. No, sì, è una persona di una certa... non è grande, vecchio, ma è anzianotto, dai. Ehi, non lo avrà, quanti anni avrà? 68 anni, Antonello. 70, no, non virà 60 zincani, andava a 60, 62. Ah, boh, non lo so. Se c'era, ma io ho messo 60 zincani. Poi, boh, non lo so. Va bene, quando capita, glielo chiediamo. Ma sapeva che sei campenne, Antonello. Entra, tanto sei accogliente, mio Antone, entra, facci il doccio, vai Gianni. Ah, vai, tra virumi. No, io pensavo che fosse delle età tipo Giulio, oppure di coso di Figaro, come si chiama, Guido, che faceva il camionista. Ma se c'è quella che avete detto voi, allora è un giovanotto, un giovanotto bisogno bisogno. È un bel vecchio. Così è fra. Ti ho detto che sono più vecchio io, ma non ti bongono. Quanti anni vai, fra? A marzo faccio 72. Aspetta, caspita. Bella, bella, bella. E poi tu già te li porti bene, già sei bello attivo sempre. Già sei bello attivo, non ti lamenti di nulla. Eppure hai travagliato una vita. Hai travagliato una vita. Beh, gente, è vero che non fa zi. Io non ho mai fatto nulla, sana quanto un pesce. Arriva a 60 anni e sono tutti quanti pieni di scusi, pieni di dolore, mandronate infiniti. Vabbè, quelle sono scuse perché hanno sentito che, che il governo adesso, quando c'hai qualche handicap, ti danno subito i soldi, allora fanno finta. Non è così, no. Auderata a Teridina, a chissà che miserabili. Oh Iuia. Ma quando sono le votazioni a sorso? Ma non lo so e non lo voglio sapere, perché intanto non ci vanno lo stesso. Bravo, anche io. Non ci vado. A parte il fatto che non conosco, che non conosco a nessuno, però non ci vado, anche se ti posso dire una cosa, fra. Comune di Sorso non gli puoi dire niente in confronto agli altri comuni, almeno per quanto riguarda le cose, cioè a Sorso ti fa la carta d'identità, pigli anni e te la vasi in insurrata. Vai al comune di Sassari a Piosa di Docco, a Punto d'Or o in qualche altro luogo. Lo so. E qua dipende come trovi anche il coso, l'impiegato. Chi si è impiegato è difficile acciapparmi. È più facile acciapparmi il bar che dentro il luogo di lavaglio. Ma vai. Ma che? Così è. Non ci vuoi fare. Però, diciamo, quando ci sono seduti sulla sedia, già il loro lavoro ce lo fanno. Adesso ci dovrei andare fra poco, perché hai sentito che tutte le carte d'identità vecchie, quelle in cartaccia, le vogliono ritirare e fare le nuove. Io la nuova l'ho dovuto fare, perché io c'avevo quella vecchia, l'ho dovuto fare nuova, già è vero, fra, già è vero, 22 euro. Capo, sì, anche io ho quella in cartaccia, però mi scade 2027. Mi scade. E poi vediamo quando mi scade. A meno che non vengono e mi dicono di cambiarlo. Ma credo che quelle come le tue vadano a scadenza, Una volta che scadono la fanno automaticamente in digitale. Non credo che ti facciano andare a fare la carta di identità nuova e poi riandare per la scadenza. No. Poi credo che vadano proprio così a scadenza, fra. Una volta che scade la tua cartacea devi te la rifanno digitale. Dovrebbe funzionare così. Hai compreso già? Un defatticante esibiglia visto dell'ufficio tecnico. Comunque allora io praticamente l'ho dovuta fare digitale, perché adesso per fare determinati documenti anche in banca la vogliono digitale, se no io ce l'avevo in carta ed era nuova, non era neanche scaduta. Però mio padre è andato a fare un documento, gli ha detto che non potevano elaborare il documento perché ci voleva quella digitale, quindi mi ha portato il pugno, gliel'ho firmato, ho fatto tutto quanto quello che dovevo fare e mi ha fatto la carta d'identità. E poi mi ha detto, lo sai che figlia di pagare pure 30 euro o 32 euro per fare la carta d'identità nuova? Ha detto pure, ecco la giustoniera truffa a danni. Già, ma per elaborare i documenti non bisogna andare in comune, no? Non ve l'ha detto che Davide, che il colpo di cacciavite ve l'elabora già Edo. Uia, no, ma meno male che c'è quella, quell'impiegato in comune che conosco, che mi Franco Gialluzaga, ce ne sono due, quindi praticamente se no me l'avrebbero dovuto fare senza pagare a chi, ma purtroppo si bagani a vacchi, hanno registrata e non so cosa, mi stava spiegando come la prassi. E ho detto vabbè dai, tanto noi non siamo né ricchi né poveri, 2 euro in più, 2 euro in manco, vai, non lavoro, ed è a puzza va. E niente, adesso bisogna vedere tipo la carta sanitaria, forse d'ora la sono modificata, forse a un anno tocca fanno un'altra d'ora. La tessera sanitaria, quella che ho io, è nuova, però non c'ha il chip, capito? Non c'ha il chip. E quando ho dovuto fare il cambio del medico, perché il mio è andato in pensione, non l'ho potuto fare a chi non va a avere un microchip. Sono cioè, dovuto andare qua, al padilì, al palazzo dove fanno il mercatino, dove c'è il pronto soccorso, e farmi la fila e cambiarmelo lì. Perché in farmacia non l'ho potuto fare perché non c'avevo quella col microchip. Dimmi un attimino, no? Ne fanno alcune col chip, alcune senza microchip. Ma non rimuova tutti quanti con un microchip. Non lo so quello. Poi speed contro speed, cose che date. Ha fatto uno speed oggi, costa 30 euro. Ha fatto uno speed oggi, viene 30 euro. A me dalla truffa che si offende con questa documentazione. A pensare che sono documenti che ti dovrebbero fare gratuitamente, ti dovrebbero fare. Lo sai una cosa, Davide? Allora se n'è andata in pensione la diabetologa mia, se n'è andata. E ne è entrato un altro. Oh, mi ha detto di andare al mio medico, farmi fare l'impegnativa e passare attraverso il CUP. Cosa gli costava a me l'appuntamento vedo? Che lui ha in ghibi, la dottoressa. Oh, un casino, non riesco a entrare a chi lo fa facciamo la niente, da. E tu, Fra, guarda che al palazzo di lì dove c'è qua a Sorso, dove c'è il coso, il pronto soccorso, dove fanno. Dai, quel centro medico, di lì c'è una diabetologa brava, a quanto mi ha detto una persona affidata, mi ha detto guarda che c'è una diabetologa di lì che è bravissima, e dovresti prendere e fare la fila di lì e fartela mettere da lì e direttamente senza chiamare il CUP da Sassari. Proprio lo fa e lo puoi fare lì direttamente. No, Gavi, io ero lì con la dottoressa Arca. Sì, era brava, in pensione si andava da Canno. Ma vai, allora lo vedi. Altrimenti c'è anche a Porto Torres, bravo. C'è anche a Porto Torres che è bravo il diabetologo, o quello che c'è ad Andreulu. Bravo, dice che è una persona che ti segue, però ha molti pazienti, quindi è chi anda, ormai lo fanno tutti fra. Lei è il signor Gavino, ti zeccano il computer, ti abbaita, fasi memoria e ti dici cosa vai, però tramite il computer non è come te prima, che ti gunisciani, sabbiani, no, non è così. E comunque, e adesso come fa? Adesso tramite CUP vi basta un anno. Come te minimo mi basta un anno, ma questo deve mettere al CUP le richieste dei pazienti che ci aveva la vecchia dottoressa, e invece nulla, non ha posto, non c'è, il CUP mi dice sempre, dice, no, non c'è niente, non hanno messo niente ancora, non l'hanno messo. Capito, avrai oggi te la tua guida, secondo come tieni, vi farò entro, e ti dico che voglio entrare, siccome ti piaciuto qua che è l'entrata, secondo come te non ti fanno entrare, come te non mi ha fatto entrare che sono qua che vi davano, ma per non brillare me ne sono andato. Però vabbè, sono usato, che fare, vi dico, no, io devo parlare per forza o con l'infermiera o con la dottoressa, allora, o con il dottore, a Maragana devo far vedere. Poi sarà niente a dirmi cosa fanno. No, no, no, gli dici che altrimenti chiami i carabinieri. Fra, a quella che bisogna trattarli così, perché intanto non i bigli compresi. Dice, guardi, io sto chiamando le forze dell'ordine, perché questo qua è un diritto che mi spetta. E ho questo tipo di... ho questa patologia, ho questa lieve patologia, però io devo essere sotto controllo, perché mi servono i medicinali, mi servono queste cose qua. E vi lo dico, sto chiamando i carabinieri, adesso, guardi, sto chiamando i carabinieri perché non li voglio sapere, sto facendo mille telefonate, mille cose, frate, arriva a vedere incazzato, a chi si no cos'è nella baraura, a chi si no ti piglia il baruguru. Ecco, no, che sei quasi girate che fanno le voce di capitolo, che vi non l'ho compreso, vabbè, là, comunque, vediamo cosa nisce. Io posso accettare, 30 settembre, anche io le visite le facevo sempre a settembre, le facevo. Hai detto sino a settembre, se a settembre non sono riuscito ancora a entrare, speriamo di sì. Sì, tu vai e diglielo, dici, guarda io, ma guarda giurata se mi batto solo batteri rugosa, che se tu pigli, mica io per rinnovarmi la patente, io non ne avevo diabetologo, io ero, mi pare che ero 3 anni senza andare a fare una visita a Fra, e non avevo diabetologo. Come ti sono andato, ho detto, chi c'aveva lì? Questa, ma lei deve passare tramite il cupo, io tramite il cupo non ci passo. Ma lei perché non si è più presentato qua? Perché non avevo bisogno di venire. E questo lo dice lei, e glielo dico io che non ho bisogno. Io devo rinnovare la patente, io non vengo, io non, ho detto, non sono di quelli che vengo e vi devo disturbare perché non ho niente da fare, io sono impegnato e non ho pleno, e una volta che mi avete dato la mia terapia e me la so tenere io a bada, non ci vengo qua, gli ho detto cosa vuole vedere, le analisi del sangue, io le analisi me le faccio anche a conto mio, le faccio in privato, infatti ho preso e ho portato tutto il fascicolo delle analisi che avevo fatto, mi sembra un 7-8 mesi prima, infatti ad Abuio ho detto, ma lei non si è più presentato, dovrebbe passare tramite CUP, poi adesso chissà come sono le sue condizioni, ho detto guardi le mie condizioni sono sanissime, queste qua sono le mie cose, queste qua tutto quanto diciamo la mia macchinetta mi lega a quello che ho, mi ha detto caspita va bene, ho detto va bene, ma io non vengo qua a disturbare, a fare, a cose, ma lei non disturba e non disturbo. Si vede che non ti subi, ma poi i bidi non ti mettono neanche in mezzo, quando cambiano non ti mettono neanche in mezzo, detto, comunque dovrei rinnovare la patente, ma ho fatto tutte quante le analisi, tutte quante le visite e sono andato a rinnovarmi le patenti, basta, venite. Capita, ma ve la voto, invece chi ti salza in chiva a rompirli di cato, rimanzare in sera, chi si andare in YouTube, vai Gianni. Ehi, torniamo sempre al discorso che è tutto magna magna, tutto affare di denari e tutto affare di intruiti, perché così se passi dal CUP loro registrano che hanno quel paziente lì, l'altro paziente là, cioè non ne vogliono gente che gli porta le analisi in privato e che cose, compreso, a chi... e se no è troppo facile. Io stesso mi sono litigato per una cazzata tipo del genere, ho detto ma ascoltami un attimo, allora io praticamente usufruisco delle infermiere ADI, no? Che praticamente vengono a farmi il prelievo del sangue quando devo andare a fare la trasfusione e in più due volte, allora il lunedì, il mercoledì e il venerdì, 3 volte a settimana vengono con la scusa di medicarmi il piede e misurarmi la pressione a vedere se è tutto a posto. Ecco, e quando vengono praticamente se la farmacia ADI non mi ha mandato le bende nel tipo disinfettante, la crema o come si chiama quella medicina, l'altra volta leggo il telefono ADI alla farmacia, ho detto ascoltate un attimo, ma come faccio io a curarmi questo piede se voi dalla farmacia non mi mandate i medicinali da giù e poi segnate per esempio che loro hanno fatto la prestazione del mio trattamento. Lo so, ma se noi non ne abbiamo in farmacia come facciamo a mandartele? Allora cosa vengono a fare queste infermiere, la Giudizio? Io sono contento che loro lavorano, ma se loro vengono e non hanno il materiale a disposizione per potermi bendare questo piede, come te ne avvisemmi in occhi? Sorimo, lei deve avere un po' di comprensione anche da parte nostra. No, io non ne ho più comprensione, la Giudizio. Anche io, la Giudizio, mi sono comprando di garze, il disinfettante, il cerotto, mi sto comprando tutte le pomate che ci servono, che mi servono. Ha detto, ma io, ha detto, chi sono? Il figlio di Gosu, ha detto, di chi sulla cacata che è morto, ha detto. O sono uno stupido, ha detto, che mi compro le cose e più quando vado anche a fare la trasfusione devo pagare 80 euro di trasporto dell'autoambulanza. Ha detto, quindi, ha detto, i soldi io li do tutti quanti a voi, alla sanità, e io mi pongo a mangiare a Fabiru o Pellet, ha detto, così facciamo, ha detto. Ma non si adiri, non si adiri. Ha detto, è peccato, ha detto, che non riesco a venire, non riesco a muovermi. Se non sarei venuto ieri ve li avrei cantate bene bene, ha detto. Brutti macchi di gardena che non si di altro. E quindi siamo, guarda, è come se tu dica, è un casino, bisogna stare rivolti al cliente, anche se noi non i gavibiti. E se invece ci sono quelli che ci sono ogni giorno lì, hanno tutti i benefici possibili e immaginabili a chi non si sa mai che la sassa barriga a capo e gli attacolo ruccio direttamente. E quindi, guarda, è un casino, io sono sempre frenato malissimo. Lo so, devi stare lì, io per rinnovare la patente, non posso travagliare. Ma lei deve aspettare, perché io sono andato a marzo, mi volevano dare il rinnovo della patente, no, lei il rinnovo della patente dovrebbe farlo, era, non mi ricordo se è maggio-giugno, lui è andato a San Gaccabo, ha detto, adesso 8 è, ha detto, qui sa che verrà l'entrata, l'accettazione. Ho detto, ascolti un attimino una cosa, ho detto, ma lei cosa, ma è sicura di quello che ha detto? Guardi che lei, proprio così mi frara, ha detto, ma lei è sicura di quello che sta dicendo? Guardi che lei non è sicura di quello che sta dicendo, guardi che lei mi deve far parlare con qualcuno adesso perché io devo fare il rinnovo della patente, devo farlo in una settimana. Ma lei non può pretendere che viene qua dopo 3 anni? Io gli ho detto che vengo qua dopo 3 anni perché di voi non ne ho bisogno, cioè voi ci siete ma non devo disturbare nessuno, non avevo bisogno e non sono venuto. Gli ho detto, quindi io adesso voi mi fate parlare con qualche diabetologo, mi dà tutto quello che serve per fare le visite, in una settimana le faccio avere i documenti, perché a me mi serve, a me tra 15 giorni mi scade la patente, guarda, io devo rinnovare la patente la mattina, cioè la sera di domani devo andare a lavorare. Come ti ha visto, io ero mezzo arrabbiato, che ha visto che noi ero gli ugandi, e ti aspetti che guarda, c'è qualcuno che la può, però non funziona così, guardi che non funziona così, e già funziona, ho detto, guardi che funziona, lì mi chiami, mi faccia parlare con un diabetologo e poi vediamo un pochino se funziona. E infatti è sceso uno che adesso è in pensione, sta lavorando saltuariamente, l'hanno richiamato perché non ci sono più medici che fanno quella prestazione, capito? E mi ha controllato tutti i fogli e ha detto sì, guardi, deve fare questo e questo, visita oculistica, ma mi ho pagato tutto, mi fra, non è che sono andato a prendere e chiedere di farmi fare le visite gratis, mi sembra che l'avevo anche detto fra, l'anno scorso a marzo, e mi ho pagato tutte le visite, sono andato di lì a qua a Sorso, che c'è quell'affare privato che fa tutte le visite oculistiche, e ho fatto ecco doppio con il doppio in privato, oggi peso più di 400 euro per farmi le visite e non ho cercato niente a nessuno. Però tu non mi puoi negare a me di prendere, farmi il foglio oppure farmi fare un foglio dal diabetologo come che io sono ritorno alla guida. Tu me lo devi fare, se io te ti arrego le visite, chi mi bago, tu a me me lo vai. A chi sei bagato? Da sei bagato? Se no me lo piglio in privato me. Vai fra. Capa, ma dimmi una cosa, che documenti ci vogliono per la patente? A proposito di ammettato. Che ti devono fare, che te li fa questi documenti? Il diabetologo? Il diabetologo ti deve rilasciare ti deve dare una certificazione che tu sei idoneo alla guida, capito? Però succede questa cosa qua, succede solo se tu sei insulino dipendente, però tu non fai insulina, fra. Tu non fai insulina e niente, tu non hai bisogno, tu prendi la pastiglia. Quindi a te di queste visite qua non ce n'è bisogno. Però io che faccio l'insulina, devo portare quel che poi insulina. Non è vuoto, è vuoto pochissima. Io la faccio, mi volevo ridare la pastiglia, ho detto no, ma lei deve prendere la pastiglia, io pastiglia non ne voglio. Voi a me mi lasciate l'insulina, perché io con l'insulina mi so gestire, io me ne faccio poche dosi, mi fra, poche dosi. Tu pensa che io mi faccio di quella per mangiare, me ne faccio una al giorno e poi faccio quella per la notte, ma ne voto 6 unità, cioè proprio roba leggera. Io già mi muovo, mi fra, quindi smaltisco, ma ne faccio poca. E lui ha preso, ti deve rilasciare questo foglio, come che tu sei un paziente, che sei nella norma secondo dei parametri, ti fa fare la visita oculistica alla retina, sì, per la retinopatia. E poi ti fa fare l'elettrocardiogramma, l'eco Doppler, l'eco color Doppler e tutte le analisi del sangue. E poi niente, la cardiologa mi aveva detto che avevo il colesterolo alto, che poi il totale era 160 e il cattivo era 100, e mi ha detto no, bisogna portarlo il cattivo sotto i 70. Ho detto, portarlo sotto i 70, cosa devo fare? Deve prendere questa pastiglia, va bene, biglio di tabacchiglia del colesterolo. E l'abbiamo portato sotto i 70. E quindi io te la consiglio perché sei giovane, vabbè, la devo prendere, dammela che la prendo, non me la fotte nuda. Vediamo Buruvissa, è una prevenzione, no? Detto, preveniamo perché magari stai iniziando a produrre il colesterolo, quindi prendi questa qua che ti può far solo bene invece che male. E va bene, ci sta. Comunque ti chiedono questi documenti, poi ti rilascia il foglio, lo porti in un'agenzia di pratiche auto, ti danno l'appuntamento e ci sarà un dottore militare che ti fa leggere da lontano, ti chiede qualcosina, ma tranquillo, capito? E costa 110 euro il rinnovo della patente, in tutto per rinnovare la patente a GPESO, Zicozento, intorno ai 530 euro, tra visite e coso di agenzia delle pratiche auto. Pratiche auto, ma oh vabbè, a me non me ne ritrunga ancora, io quando questo Cuscini all'anno che viene, a marzo, ando, se non mi ritrunga nulla, ando mi presento in opera autoscuola e me la posso. No, non nell'autoscuola, no, dove si fanno i passaggi di proprietà, fra, a Porto Torre, se via Torre Sacchi vai in via Torre Sacchi, quella via che scende al porto, andi via Torre Sacchi, c'è scritto agenzia e pratiche auto, guarda, sono molto in gamba, sono persone in gamba, io quando ho dovuto fare qualche documento per le macchine, per il camion, per quello che è, sempre fatto da loro, e sono persone veramente veramente in gamba. Addirittura mi ha detto no, a te ti scade, te la do subito, mi ha messo in mezzo, mi ha detto però devi venire alle 19.30 stasera, ho detto perché sono andato la mattina, io sono andato di lunedì mattina e gli ho detto quando posso farla questo rinnovo, mi ha detto guarda, ti metto subito in mezzo, stasera la vuoi fare, però devi venire alle 7.30, ho detto pronti, stasera alle 7.30 giochi no. Raggio vuota tutte le voglie così, ora, rinnovata. Amico, in una settimana ho fatto tutto. Ehi, hai capito, però te lo dicendo io, ho capito quello. Che, ma se a me non mi dicono niente, chi è che, da dove lo so io che devo fare queste cose qua? Me lo deve dire il diabetologo, no? Bravissimo Franco, te lo deve dire il diabetologo, esatto. Te lo devi dire il diabetologo, infatti tu devi andare al diabetologo e gli dici guardi che io tra un anno c'ho il rinnovo di patente, cosa devo fare? E ti dirà lui stesso, ma lei non fa insulina, quindi non c'è bisogno di andare via, diciamo di fare tutta questa prassi, capito? magari ti farà fare un controllo, ti farà fare qualche visita oculistica, però non ti dà le stesse cose che hanno fatto fare a me. Ma se lui non mi dice niente, che io posso l'indiano e ando e me la rinnovo a te, qual è il problema? Il problema è che se ti succede qualche incidente e vieni a sapere che sei diabetico, prima di tutto ti danno come che tu hai dichiarato il falso, e poi ti